Salva Danaio di Deborah Rosciani. Permettetemi di soffermarmi un attimo sulla grande tragedia di questi tempi, che d'altronde al Sud tocca punte di desolazione e allarme sociale. È la questione che sarà la prima priorità del mio governo, la questione del lavoro. Solo col lavoro si può uscire da questo incubo di impoverimento e imboccare la via di una crescita non fine a se stessa. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Abbiamo un nuovo governo da ieri con la fiducia da parte della Camera dei Deputati, oggi alla ricerca della fiducia da parte del Senato. È tempo che questo governo si metta a lavorare. In questi giorni sono stati vivisezionati tutti i ministeri per fare un punto su tutte le priorità che questi hanno, e come sapete ce ne sono un paio che sono più di tutti sotto i riflettori: il Ministero dell'Economia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'incarico di Ministro del Lavoro è andato ad Enrico Giovannini, già presidente dell'Istat, cui i sindacati hanno già fatto capire quale sarà il primo lavoro di cui si dovrà occupare: reperire le risorse per gestire al meglio gli ammortizzatori sociali. In Italia, visto che il numero dei disoccupati è crescente e chi termina il trattamento provvisorio non sempre nelle condizioni di rientrare nel mercato del lavoro. Peraltro avete sentito anche agganciato alla sigla di apertura una parte dell'intervento di ieri del premier incaricato Enrico Letta. Poi ve ne faremo risentire anche altri i brani sempre sulle tematiche del lavoro. E allora la questione più importante del momento, una delle tante, ma questa è sicuramente molto importante, è proprio la cassa integrazione in deroga. L'ammortizzatore sociale, che è stato peraltro creato dal governo Berlusconi negli anni passati per estendere la platea dei lavoratori tutelati in caso di disoccupazione. Nella sostanza si tratta di un ammortizzatore cofinanziato fino a poco fa dalle regioni, destinato ai lavoratori di quelle aziende che non hanno o hanno perso i requisiti per utilizzare la cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Ma cosa significa in questo momento rifinanziare questo strumento? Quante aziende, quali lavoratori sono interessati a questo ammortizzatore, con quali criteri si accede, quali i requisiti aziendali ed individuali? Tutto questo parleremo questa mattina con i nostri ospiti. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, i vostri interventi in diretta. Se volete scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Buongiorno e ben ritrovata, è da un po' che non la invitiamo, Maria Carla De Cesari del Sole 24 Ore. Buongiorno. Sempre impegnata con molta attenzione sulle tematiche del lavoro, reduce peraltro dal vistosissimo impegno del Sole 24 Ore di settimana scorsa, il forum lavoro che si è svolto a Roma con il ministro Fornero, con collaborazione appunto della Fondazione dei Consulenti del Lavoro. Mi sembra che sia andato molto bene, Maria Carla, peraltro tanti temi anche di questo si è parlato? Si è parlato anche di questo, si è parlato di ASPI e di ticket, soprattutto di ticket sui licenziamenti. Naturalmente, come dire, il problema della cassa integrazione in deroga e il reperimento di un miliardo è compito di questo governo. Il ministro Fornero l'ha detto esplicitamente, era la scadenza ormai martedì scorso, e ora il governo dovrà prima di tutto trovare questi fondi, visto che da più regioni è stato da qualche settimana lanciato l'allarme sull'esaurimento. Allora, con noi questa mattina anche l'avvocato Giampiero Falasca, jus laborista, esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno avvocato e ben ritrovato anche a lei. Buongiorno. Eccoci qua, si metta un po' meglio al telefono perché non la sentiamo affatto, e buongiorno anche al nostro consulente del lavoro Alessandro Rottaporta, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, naturalmente ho già dato tutti i termini ai nostri ascoltatori per poter intervenire in diretta, quindi mi aspetto la prenotazione delle vostre telefonate se volete anche commentare i nuovi dati diffusi questa mattina dall'Istat sulla disoccupazione, che peraltro mi ha stupito molto per la parte riguardante la diminuzione per l'occupazione che riguarda la componente femminile. Le donne al lavoro si sono ridotte di 70.000 unità a marzo rispetto a febbraio. Mi ha colpito questo dato perché noi appena 15-20 giorni fa abbiamo fatto una trasmissione dedicata invece alla statistica che si riferiva al mese precedente, che aveva visto un aumento delle donne occupate, e quindi insomma un trend da osservare davvero con grande attenzione. Adesso invece andiamo al tema di questa mattina, parliamo appunto della cassa integrazione in deroga. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, un eroe. La cassa integrazione in deroga è un ammortizzatore sociale creato dal governo Berlusconi nel 2004 e potenziato nel 2009. con l'obiettivo di rispondere ai drammatici effetti della crisi economica. È stata pensata per quelle aziende che non possono accedere o che hanno già usufruito e quindi non possono più accedere alle altre due forme di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria. È il caso, ad esempio, delle imprese industriali che hanno meno di 15 dipendenti, aziende artigiane, aziende commerciali fino a 50 dipendenti, ma anche degli studi professionali. Può essere inoltre richiesta per alcune categorie di lavoratori che per legge non avrebbero accesso ad alcun ammortizzatore sociale, come ad esempio gli apprendisti. Possono accedervi tutti i dipendenti dell'azienda in crisi, a patto che siano stati assunti da più di 90 giorni e l'importo previsto è pari all'80% dello stipendio, a patto che questa cifra risulti al di sotto di un tetto massimo prestabilito di anno in anno. La lunghezza del periodo in cui lo Stato concede il sussidio viene stabilita nei singoli casi, in base a precisi accordi governativi firmati con l'impresa. Ma è stato proprio il governo a trovarsi in difficoltà negli ultimi mesi di fronte all'aumento di richieste per la cassa integrazione in deroga. L'allarme è stato lanciato dallo stesso ministro, ormai ex ministro, Elsa Fornero. Le risorse stanziate all'inizio dell'anno, 200 milioni di euro, non sono sufficienti. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. C'è già arrivata una richiesta di chiarificazioni da parte di un'ascoltatrice di Roma, l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Io leggo subito la domanda di Claudia, poi prima di cominciare la nostra chiacchierata con i nostri ospiti vi faccio risentire anche una parte un po' più ampia dell'intervento del premier incaricato Letta ieri alla Camera dei Deputati. In tutte quelle parti in cui parla esplicitamente del lavoro e tocca anche la questione della cassa in deroga. Claudia ci chiede: vorrei sapere se tutte le aziende possono chiedere la cassa integrazione in deroga. Io lavoro per un'associazione sportiva senza scopo di lucro che attualmente in crisi economica ha 4 dipendenti. Ci è stato detto che la nostra azienda non poteva chiedere questo strumento perché non c'erano presupposti, non sappiamo bene quali siano, e poco tempo fa è stata licenziata anche una collega con 20 anni di anzianità. Dove possiamo informarci in merito? Claudia, adesso le daremo tutte le indicazioni. Temo che appunto la cassa in deroga a questa azienda non possa effettivamente essere attribuita, non possa essere riconosciuta. Vediamo se però possono esserci altri tipi di ammortizzatori sociali per questi lavoratori. Adesso sentiamo di nuovo Enrico Letta. Senza crescita anche gli interventi di urgenza su cui ci siamo impegnati e che qui ribadisco: rifinanziamento delle casse integrazione in deroga, superamento del precariato anche nella pubblica amministrazione sarebbero insufficienti. In particolare, con i lavoratori esodati la comunità nazionale ha rotto un patto e la soluzione strutturale di questo tema è un impegno prioritario di questo governo. Per un welfare attivo, più giovane e al femminile, andranno migliorati gli ammortizzatori sociali, estendendoli a chi ne è privo, a partire dai precari, e si potranno studiare forme di reddito minimo soprattutto per famiglie bisognose con figli. Hanno trovato largo consenso parlamentare nei mesi passati le proposte su incentivi al pensionamento graduale, con part-time misto a pensione, con una staffetta generazionale per la parallela assunzione di giovani. La riduzione fiscale senza indebitamento sarà un obiettivo continuo e a tutto campo. Anzitutto, quindi, ridurre le tasse sul lavoro, in particolare su quello stabile e quello per i giovani neoassunti. Maria Carla, peraltro il neoministro del lavoro e delle politiche sociali, come specifica questa mattina l'analisi sul Sole 24 Ore di Cristiano Gori, si trova nella scomoda, chiamiamola così, posizione di essere il massimo esperto italiano di statistiche questa mattina nella sua prima giornata di impegno al Dicastero del Welfare. Appunto, si trova già a dover analizzare i dati sulla disoccupazione e appunto presidente uscente dell'Istat e neoministro del lavoro. Quali domande faresti tu al ministro Giovannini? Relativamente anche al, come dire, ambizioso programma economico che il suo premier ha indicato ieri al Parlamento. ma come dici tu, il programma è ambizioso. Diciamo che probabilmente bisognerà procedere per gradi. Letta si è posto in un orizzonte temporale di 18 mesi. Naturalmente bisogna affrontare l'emergenza. La prima emergenza appunto è la cassa, è trovare i fondi per la cassa in deroga. La seconda emergenza è in qualche modo impostare un lavoro sugli esodati, una ricognizione sugli esodati, per capire come dire, qual è il meglio, l'entità del fenomeno, quali sono a questo punto le persone che sono rimaste fuori dalla protezione dei tre decreti emanati, firmati dal ministro Fornero con il collega dell'economia. L'altra questione però che va in qualche modo posta subito è quella della come dire, di creare le condizioni per tornare ad assumere. Più volte in questi mesi ci siamo detti che la riforma del mercato del lavoro fatta, promossa dal ministro Fornero, approvata dal Parlamento, in qualche modo era carente proprio sulla flessibilità in entrata, cioè ha posto molti paletti, o comunque, come dire, il mondo delle imprese, il mondo degli esperti, i giuslavoristi l'hanno giudicata in questo modo: troppi paletti all'entrata, troppe come dire, condizioni sul contratto a termine, troppe regole che in qualche modo hanno ingessato il contratto a termine. In questo contesto anche un contratto come quello dell'apprendistato, che era stato riformato nel 2011, che in qualche modo per cui in qualche modo si è trovata una soluzione condivisa tra Stato e Regioni, è rimasto in gran parte inattuato. Probabilmente occorre dare un segnale di fiducia, e questo probabilmente un economista, un esperto, una persona esperta di statistiche, ma soprattutto grande conoscitore del mercato del lavoro, può effettivamente impegnarsi. Non ci sono grandi ricette probabilmente, ma c'è la necessità di ricreare fiducia. Quindi, come dire, sul contratto a termine in parte la strada era già stata tracciata dallo stesso ministro Fornero, anche se il ministro Fornero non è mai voluto andare fino in fondo. Mi riferisco al contratto a termine a causale, che era stato limitato al primo contratto nelle imprese, diciamo, ordinarie. Al primo contratto era stato limitato a 12 mesi. Nel corso dell'anno poi c'era stata un'estensione del contratto a causale per le start-up innovative, senza alcun limite. Allora probabilmente la strada è proprio quello di, come dire, in una situazione di emergenza, in una situazione in cui le imprese hanno bisogno di fiducia, probabilmente la soluzione è quello di rendere meno faticoso stipulare un contratto a termine a causale. E ancora, per esempio, l'altra questione è quella di rendere i contratti a termine, la successione dei contratti a termine, quindi gli intervalli, molto meno molto meno lunghi. Molto meno lunghi, infatti. Allora, ci hai già dato anche qualche spunto per le prossime puntate dei nostri martedì del lavoro. Vorrei esplorare quelli che sono appunto i termini di questi contratti di lavoro a termine a causale. Sul tema dell'apprendistato, ieri Letta, noi abbiamo dedicato a questo strumento, a questa tipologia di contratto, tante puntata, ha detto che bisogna semplificarlo. Abbiamo già visto quali sono anche le resistenze, tra virgolette, delle aziende ad adottare questo tipo di strumento appunto per l'assunzione. Andrei anche ad un commento con i nostri altri due ospiti di questa mattina, l'avvocato Falasca. Chiederei anche a lei quali sono le curiosità che si vorrebbe togliere con il neo ministro del welfare. Ma guardi, intanto lo vorrei ringraziare, perché dopo un paio di anni in cui abbiamo sentito parlare di temi che erano diversi da quelli che sono proprio vissuti quotidianamente dal mercato del lavoro, finalmente abbiamo sentito parlare dei temi reali, e questo è un salto di qualità notevole rispetto appunto all'approccio che ha avuto il precedente ministro, che è rimasto un po' vittima di questa sua visione fatta di molta teoria e poca pratica. Quindi con Enrico Letta siamo tornati finalmente ad affrontare i temi reali. Poi non sappiamo se lo farà, se veramente darà le soluzioni, però intanto la lista è stata straordinariamente precisa. E questo è riferito a Letta. Io le chiedevo invece, ecco, le curiosità con Giovannini che si vorrebbe togliere. Li accomunavo un pochino. Giovannini, siamo tutti un po' curiosi veramente, perché sicuramente uno dei problemi del Ministero del Lavoro degli ultimi 15 anni è stato che ci sono stati troppi giuslavoristi. E cosa hanno causato i giuslavoristi? Hanno portato ciascuno di loro, quindi la mia categoria, una montagna di norme. Ognuno che arrivava apriva la valigia e sfoderava norme su norme su norme. Siamo alla situazione, quindi non solo la Fornero, ma tutti, anche la legge Biagi, no? La legge campione della flessibilità è una legge fatta di 86 articoli, ognuno di 6 o 7 commi lunghissimi con rinvii ai decreti ministeriali e quant'altro. Quindi un occhio diverso sul mercato del lavoro è sicuramente una ventata d'aria fresca, e chiederei al Ministro che tipo di approccio vorrebbe avere per gestire ad esempio le dinamiche di cui stiamo parlando. La cassa in deroga, no? Che già la parola fa pensare un po' all'assurdità del sistema. Noi abbiamo tutto un mercato del lavoro che dipende da una cosa che si chiama in deroga. Non so se ci avete mai pensato a questo. No, guardi, sarebbe stata veramente proprio l'oggetto della mia prossima domanda, per spiegare anche la tipologia dello strumento, essendo una deroga è qualcosa di straordinario, no? Certo. Esatto, chiederei al Ministro come, perché la legge Fornero, dando anche un'idea, qua un'idea buona, aveva intravisto una soluzione: passare dalle casse in deroga ai fondi di solidarietà, che è una cosa che dovrebbe partire nel 2016. Chiederei al Ministro, insomma, che cosa vuole fare su questa che è la vera emergenza. Le dico solo una cosa per dare l'idea dell'emergenza: nel Lazio l'11 giugno scadono le risorse, le casse in deroga, le aziende oggi stanno tutte decidendo di licenziare perché non hanno visibilità se dal 12 giugno potranno tenere le persone ancora in cassa integrazione. Perché, perché non sanno se questo strumento potrà essere ancora procrastinato. Esatto. Allora, diciamo, la cassa integrazione, uso questo brutto termine, però è un parcheggio in attesa che l'azienda si riprenda. Se viene meno la possibilità di aspettare la ripresa, le aziende licenziano. Quindi siamo veramente sull'orlo del precipizio. E allora, questi 2 miliardi che mancano servono veramente. E però a Giovannini chiederei come usciamo dalla in deroga. E certo, perché qua bisogna ricominciare a produrre. Il problema è anche questo: qua c'è anche un ministro dell'economia che deve mettersi al lavoro, probabilmente un dicastero dello sviluppo economico che deve attivarsi molto rapidamente. Tutti devono, io insomma, nel mio mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, penso che dovrà funzionare così. Rottaporta, Alessandro Rottaporta, un altro commento prima appunto della nostra prima pausa. Abbiamo ancora un bel paio di minuti e mezzo di tempo. Le chiedo anche a lei, appunto, se vuole un commento rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, ma anche di aiutarci ad introdurci realmente nel tema di oggi, il tema della cassa integrazione in deroga. Se vuole già rispondere anche all'ascoltatrice, la risposta all'ascoltatrice ci darà già l'opportunità appunto di spiegare per esempio quali aziende, quali criteri si devono appunto rispettare per poter utilizzare questo tipo di ammortizzatore sociale. Un'azienda che chiede la cassa integrazione in deroga significa che è un'azienda che ha già fatto sperimentare ai suoi lavoratori la cassa integrazione ordinaria o straordinaria, Rottaporta? Allora, partiamo dal commento. Mi sembra che sia la dottoressa De Cesari che l'avvocato Falasca abbiano già fornito sufficienti input al neo ministro del lavoro. Sicuramente, allacciandomi proprio al commento dell'avvocato Falasca, c'è un gran bisogno di semplificazione. Ecco, questo direi che comunque anche in questa fase di difficoltà trovarsi di fronte a normative e a provvedimenti attuativi che sono sempre un po' singhiozzanti, che sono sempre un po' con percorsi a tappe tortuosi, questo sicuramente non aiuta, perché proprio nel momento di crisi l'incertezza è un fattore che non fa altro che creare delle difficoltà e aggiungerne a quelle che già ci sono. Quindi sicuramente questo è un aspetto che speriamo ci sia un'inversione di tendenza, proprio a norme chiare, semplici, che non necessitino poi di svariati tasselli che creano un iter veramente difficile. Entrando invece nel merito di questo ammortizzatore, che appunto è stato introdotto nel 2008 con uno dei provvedimenti anticrisi, e appunto la parola stessa dice che doveva essere un tampone, forse è stato anche, diciamo, venduto in modo non corretto, perché ha dato una copertura e sta dando ancora oggi, dovrebbe dare una copertura molto ampia a tutte quelle aziende che normalmente, sia alle aziende che sono normalmente escluse dalla protezione, dall'ombrello degli ammortizzatori sociali, quindi mi riferisco, tanto per fare degli esempi, a piccola azienda artigiana, al negozio, al piccolo negozio, agli studi professionali, quindi aziende che normalmente non finanziano attraverso la contribuzione INPS gli ammortizzatori ordinari o la cassa straordinaria laddove ci siano le fattispecie in cui può essere richiesta, possono accedere a questo strumento in deroga, ma possono accedere anche quelle aziende che, avendo esaurito o i trattamenti ordinari o i trattamenti straordinari, si trovano senza salvagente, diciamo così, e quindi possono accedere alla cassa in deroga, quindi c'è un doppio utilizzo. E poi copre quei lavoratori che prima erano esclusi, ad esempio gli apprendisti adesso con la riforma del lavoro hanno la copertura ASPI in caso di perdita del posto del lavoro, però come ammortizzatore sociale, quindi in costanza di rapporto di lavoro, la cassa in deroga copre anche i lavoratori apprendisti o i lavoratori somministrati. Nel caso della domanda dell'ascoltatrice, io trovo strano, adesso bisognerebbe poi scendere nel dettaglio. Rodda Porta, possiamo rispondere all'ascoltatrice dopo la pausa pubblicitaria? Okay. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, sono un eroe, perché lotto tutte le... Potrebbero essere più di 500.000 gli italiani che rischiano di non ricevere il sussidio di cassa integrazione nei prossimi mesi. L'allarme è stato lanciato dal segretario della CGIL, Susanna Camusso, ma anche l'ex ministro del lavoro, Elsa Fornero, aveva recentemente sottolineato questa urgenza, evidenziando la necessità di trovare 1 miliardo di euro da destinare all'ammortizzatore sociale. Le ore di cassa integrazione richieste aumentano e il denaro stanziato dal governo rischia di non essere sufficiente a sostenerle. Un discorso che riguarda in particolare la cosiddetta cassa integrazione in deroga. Se infatti la cassa integrazione ordinaria viene finanziata dai contributi versati da aziende e dipendenti e la cassa integrazione straordinaria è finanziata in parte dai contributi e in parte da risorse pubbliche, quest'ultimo istituto, una sorta di ultima spiaggia, si basa interamente su stanziamenti dello Stato. Sono 85.000 i lavoratori che hanno ricevuto la cassa integrazione in deroga tra gennaio e marzo 2013, anche se le richieste sono destinate ad aumentare con l'intensificarsi della crisi e l'esaurirsi degli altri ammortizzatori. Un incremento del 147% solo a marzo, stando sempre ai dati CGIL. Se a gennaio erano stati stanziati 200 milioni di euro, si stima ora che ne siano necessari oltre 1 miliardo. Una pratica senza dubbio non facile, quella che si è trovato sul tavolo il neo ministro Enrico Giovannini. Ed è questo il tema del quale stiamo parlando questa mattina, Salvadanaio, nel nostro martedì del lavoro. Ancora buongiorno a tutti i nostri ospiti, Maria Carla De Cesari del Sole 24 Ore, l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista, esperto per il Sole 24 Ore, e il consulente del lavoro Alessandro Rotaporta. Tra l'altro, Maria Carla De Cesari, perché tra ottobre, novembre e dicembre dello scorso anno erano stati sospesi gli assegni della cassa integrazione in deroga? Che tipo di emergenza si era verificata al punto che appunto era stato sollevato con grande vigore la questione del termine della cassa integrazione in deroga? Semplicemente non c'erano più la copertura. Soldi. Semplicemente non c'erano più soldi, le regioni non avevano più risorse e in qualche modo si è dovuto poi affrontare, trovare nuove risorse. Tra l'altro vorrei aggiungere un piccolo tassello ai discorsi che facevamo prima, per dire come la coperta sia molto corta, perché se non ricordo male, con la legge di stabilità, quando appunto si è rifinanziato in modo parziale lo strumento della cassa integrazione in deroga, e si sapeva già che in qualche modo le risorse sarebbero bastate solo per i primi mesi dell'anno e probabilmente forse neppure sarebbero state sufficienti, una possibilità che è stata ventilata nella legge di stabilità è stato quello di ricorrere al finanziamento con il ricorso dei fondi di formazione. Questo è un'eventualità però in qualche modo molto negativa, nel senso che se si va a depauperare, se si vanno a depauperare le risorse di questi fondi, come dire, di categoria, che vengono, come dire, che hanno come mission quello della formazione continua dei lavoratori, mm-hmm. dell'aggiornamento, in qualche modo si viene ad azzoppare una delle possibilità di, come dire, di dare formazione, di mantenere sul mercato competenze mature. È una delle, come dire, delle richieste delle imprese, quello di poter avere delle risorse proprio per continuare ad aggiornare la propria forza lavoro. In qualche modo quello delle competenze, dell'aggiornamento, mm-hmm. è una, come dire, delle possibilità per rimanere sul mercato, anche per i lavoratori stessi, e per le imprese quello di avere del personale che è sempre, come dire, che è sempre aggiornato, certo. nelle competenze. E quindi, a beneficio di questo, ricordo di una puntata che abbiamo dedicato al cosiddetto outplacement, come mantenersi sempre pronti e preparati anche per rispondere alle esigenze che si diversificano sul mercato del lavoro. Torno ad Alessandro Rottaporta, avevamo mantenuto in sospeso la risposta da dare all'ascoltatrice che voleva sapere in che condizioni devono trovarsi le aziende per poter chiedere la cassa integrazione in deroga, facendo appunto esplicito riferimento al caso della sua società Rottaporta. No, dicevo in precedenza, mi sembra strano che il caso sottoposto dall'ascoltatrice non abbia trovato riscontro nella cassa in deroga, perché la cassa in deroga, essendo uno strumento, un ammortizzatore a proprio carattere universale, vi possono accedere tutti i datori di lavoro operanti in qualsiasi settore, ovviamente a parte il lavoro domestico. Quindi il fatto che sia un'associazione sportiva senza scopo di lucro può rappresentare il limite che esclude questa possibilità per questa azienda? No, perché comunque non ci sono delle preclusioni o delle esclusioni a monte che individuano determinate categorie di datori di lavoro esclusi, quindi se ricorrono i presupposti, quindi una contrazione o una sospensione dell'attività lavorativa, ovviamente va avviata una consultazione sindacale, perché la base di partenza è un accordo sindacale che poi viene presentato insieme alla domanda alla regione competente. Non vedo quale possa essere la preclusione, ecco. Allora, può dipendere dal fatto che la regione in questione è Roma, quindi il Lazio è in una condizione di particolare precarietà finanziaria? Ma quello sicuramente è un ostacolo, però la domanda, quindi diciamo l'istanza, la pratica amministrativa può comunque essere presentata da parte del datore di lavoro, perché la norma comunque è in vigore. Poi il problema purtroppo si ripercuote sui lavoratori, perché siccome è un ammortizzatore nella maggioranza dei casi a pagamento diretto da parte dell'INPS, perché la regione autorizza ma l'INPS è poi l'ente che va a pagare, allora è logico che il pagamento ai dipendenti finché non ci sono i fondi non avviene, e quindi il dipendente rimane senza integrazione, quindi, insomma, dell'ammortizzatore. Sulla base delle poche informazioni che abbiamo, in realtà questa azienda aveva tutte le condizioni per poter far richiesta di cassa in deroga, quindi deve probabilmente solamente cercare l'interlocutore giusto. Quando si perde il requisito avvocato dottore Rottaporta, appunto, per ottenere la cassa integrazione in deroga? In realtà il lavoratore la perde, per esempio, quando chiaramente va a svolgere una attività retribuita, leggo, senza averne dato comunicazione all'INPS. Un'azienda quando perde requisito? Ma l'azienda, allora lì bisogna andare a vedere le convenzioni che sono state fatte a livello regionale, perché appunto il funzionamento riguarda due soggetti, le regioni e l'INPS. A livello regionale in ogni ambito sono state siglate delle circolari tra l'INPS e le regioni proprio sulle procedure di autorizzazione e sul numero di giorni che, ad esempio, a partire dal 2013 in alcune regioni sono stati contingentati, quindi lì bisogna andare a vedere, però normalmente sono, diciamo, delle tranche che sono trimestrali, quindi la singola domanda può coprire una durata di un trimestre e non si possono superare i 12 mesi, dopodiché in caso di proroga, che però a questo punto qui è una proroga che diventa a livello governativo, il trattamento di integrazione nel caso degli stessi dipendenti viene decurtato, quindi ci sono degli abbattimenti progressivi dell'ammortizzatore. Avvocato Falasca, invece, sempre relativamente alle caratteristiche di questo ammortizzatore, qual è la percentuale del sussidio in rapporto alla retribuzione ordinaria del lavoratore? Ma guardi, il sussidio non può superare l'80% di un tetto massimo, che è di circa 1.100-1.200 euro, quindi diciamo, parliamo di somme molto, basse. Molto contenute. Tra l'altro c'è il problema di cui parlavate prima, che non sono solo basse queste somme, ma sono pagate con mesi e mesi di ritardo. Se consideriamo che la finalità è quella di dare un supporto immediato, capiamo che si risolvono, cioè quando arrivano i soldi non servono più. Cioè, la funzione è esattamente quella, cioè la tempestività è un requisito che non può mancare. Infatti, quindi noi prima abbiamo parlato della situazione che si è creata tra ottobre, novembre e dicembre, quando appunto gli assegni non venivano staccati per un problema temporaneo, speriamo fosse stato in quel momento appunto di copertura finanziaria dell'INPS, ma mediamente, generalmente il primo assegno di il primo sussidio arriva molto tardi rispetto all'ultima retribuzione ordinaria? Sì, sì, ma è la norma, cioè nel senso che la normalità sono 3 o 4 mesi di ritardo. Poi volevo segnalare, sempre perché stiamo parlando di quello che non va, no? C'è anche un altro problema che si riallaccia a quello che diceva prima Maria Carla De Cesari, la formazione. E quando si danno queste risorse, le persone devono essere messe in formazione, perché l'idea è che lo Stato spende qualcosa ma le persone devono salire in occupabilità. Allora succedono delle cose comiche, ne racconto una in 30 secondi. Un'azienda che seguivo io di ingegneri informatici prende la cassa in deroga, gli ingegneri informatici vengono obbligatoriamente messi in formazione a fare il corso di Excel. E questi ovviamente si sganasciano dalle risate, convinti che non sia vero, e poi sono costretti ad andare, se no perdono l'ammortizzatore. Quindi diamo questi soldi tardi, pochi, e li spendiamo anche male, nel senso che non riusciamo a collegarli sulla formazione. Considerate che c'era una vecchia delega sulla legge Fornero che non è stata esercitata, che parlava proprio di questo, e forse tra le cose adesso mi è venuto in mente da chiedere a Giovannini, ci sarebbe anche questa, se ha intenzione di riprendere, presumo di sì, però riprendere in mano anche questo tema. Massimo da Rovigo, la sua domanda, buongiorno, all'800 24 00 24, ci dica. Buongiorno, saluto tutti gli esperti in trasmissione. Io volevo fare una domanda che non riguarda la cassa integrazione in deroga, ma bensì quella straordinaria. Io lavoro in un'azienda dove è stata chiesta da essa una cassa integrazione straordinaria a rotazione. Questa è venuta dopo la cassa integrazione ordinaria dell'anno scorso. Quello che volevo chiedere, è stata chiesta questa cassa straordinaria a rotazione, ma la rotazione non viene assolutamente fatta. Cioè la fanno sempre gli stessi, la cassa integrazione? Benissimo, esatto. Voglio dire, voglio chiedere come mai, se è stata chiesta rotazione, l'azienda ha la libertà, diciamo, di fare quello che vuole, fra virgolette, nel senso che fa lavorare sempre una parte di lavoratori e un'altra parte no. Lei da che parte si trova, Massimo? Tra quelli che lavorano sempre o quelli che stanno sempre in cassa? No, di quelli che stanno sempre in cassa. E come altri miei colleghi la reputiamo proprio ingiusto, perché abbiamo, certo, secondo come ce la racconta lei è ingiusta, perché lei comunque vede decurtata la sua retribuzione a fronte di chi invece, lavorando regolarmente, la prende pienamente, giusto? Assolutamente sì, cioè non c'è equità di reddito. E volevo sapere, ma com'è possibile che non vi siano, non so, organi, qualcosa che anche i sindacati stessi che devono far rispettare, perché dovrebbe essere una legge. Massimo, io tra l'altro devo andare in pausa, però vorrei chiederle, ma secondo lei nella sua azienda ci sono degli ambiti produttivi che hanno bisogno di lavorare sempre, da altri che possono star fermi, per cui magari l'azienda ha fatto una scelta di questo tipo perché un'area può star ferma e quindi far andare i suoi lavoratori in cassa? Cioè lei potrebbe essere impiegato regolarmente nell'attività produttiva, nell'unità produttiva che va avanti? Ma certo, anche perché, guardi, nel mio reparto lavorano anche altre persone di altri reparti, cioè vengono spostati, che non erano neanche i loro reparti, capisce? Benissimo. È assurdo, cioè sono persone che magari nel loro posto, nella loro realtà produttiva non c'è poco lavoro, vengono spostati nella mia, dove loro non c'entravano nulla, lavorano e io sono a casa. Massimo, grazie. Allora adesso cercheremo di analizzare il tema della discrezionalità aziendale nel assegnare la cassa integrazione appunto a rotazione ad un gruppo di lavoratori piuttosto che ad un altro. Precario il mondo, flessibile la terra che sto prestando. Chiediamoci, quanti bambini non nascono ogni anno in Italia per la precarietà che limita le scelte delle famiglie giovani? solo demografia, è una ferita morale, perché non devono esistere generazioni perdute, perché solo i giovani possono ricostruire questo paese. Le loro nuove esperienze e competenze ci raccontano un mondo che cambia, il loro mondo. Rinunciare a investire su di loro è un suicidio economico ed è la certezza di decrescita, la più infelice. Semplificheremo e rafforzeremo l'apprendistato, che ha dato buoni risultati in paesi vicini. Un aiuto può venire da modifiche alla legge 92, quali suggerite dalla Commissione dei Saggi istituita dal Presidente della Repubblica, che riducano le restrizioni al contratto a termine finché dura l'emergenza economica. Aiuteremo le imprese ad assumere giovani a tempo indeterminato, con defiscalizzazioni o con sostegno ai lavoratori con bassi salari, condizionati all'occupazione, in una politica generale di riduzione del costo del lavoro e del peso fiscale. E perché, per chi si fosse perso appunto alcuni dei passaggi dell'intervento di ieri del premier incaricato Enrico Letta al Parlamento, questa mattina gliene abbiamo riproposti un po'. Noi oggi affrontiamo il tema degli ammortizzatori sociali nel nostro martedì del lavoro, con un focus particolare a quello che è più sotto i riflettori in questo momento, la cassa integrazione in deroga. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Ancora 10 minuti di tempo per stare in compagnia. Alessandro Rotaporta, ha sentito il caso dell'ascoltatore di Rovigo? Sì, l'ho sentito. E allora, la cassa straordinaria, come tutti gli ammortizzatori di questa tipologia, deriva da un accordo sindacale, quindi nell'accordo sindacale e potrebbe essere che c'è scritto che alcuni lavoratori fanno la rotazione e altri no? Bisogna intanto analizzare cosa è stato scritto, però se, come diceva l'ascoltatore, questa cassa, perché poi la cassa straordinaria è autorizzata con decreto del Ministero del Lavoro e il decreto reca dizione se la cassa è autorizzata con o senza rotazione, anche perché da questo deriva poi un contributo che è a carico del datore di lavoro, che cambia in un caso o nell'altro. Quindi il decreto parla chiaro: se il decreto prevede la rotazione, questa deve essere adottata in modo forzoso, perché altrimenti trovo strano che il sindacato non si opponga. O addirittura, certo, ci sono poi degli organi vigilanti, che sono le direzioni territoriali del lavoro competenti, che possono poi addirittura annullare il provvedimento. Quindi si può suggerire all'ascoltatore Rotaporta di andare a reperire il contratto firmato appunto con le organizzazioni sindacali per verificare se questo aspetto fosse stato contemplato, cioè di far fare a qualcuno una cassa integrazione, che questa rotazione in sostanza non si verifichi pienamente. Ma sicuramente, anche perché altrimenti verrebbe da pensare che magari è un po' un abuso questo, in questo caso, il ricorso alla cassa, e non ci sia effettivamente un'esigenza concreta. Ecco, questo è un po' un aspetto che è un po' trasversale tra le diverse tipologie di ammortizzatori, e penalizza poi quei datori di lavoro che effettivamente ne hanno bisogno, perché poi in mezzo a queste situazioni c'è un po' di tutto. Marco da Ferrara intanto ci scrive: da gennaio sono in cassa integrazione in deroga in Emilia Romagna, non ho ancora ricevuto nulla, quindi il primo sussidio, il primo assegno non l'ho ancora ricevuto, ci sono speranze, avvocato Falasca, questo è un tema che toccava lei prima, le speranze si concretizzeranno? 3 o 4 mesi, diciamo, il tempo massimo tra l'ultimo stipendio e il primo sussidio? Ma sì, sì, poi non ho mai capito bene qual è la media, però penso che sia quello, 3-4, però se ci pensate è incivile questa cosa. Infatti, anche perché per esempio il sistema pensionistico funziona in modo tale che adesso, a prescindere da tutto l'ambito degli esodati, non lasciamolo da parte, che insomma dall'ultimo stipendio, il mese successivo in cui si rimane senza stipendio perché si va in pensione, parte immediatamente il primo assegno pensionistico, i sussidi è ovvio che civilmente dovrebbero funzionare nello stesso modo. Liliana dalla provincia di Belluno, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo dalla provincia di Belluno, però le parlo di una cassa integrazione in deroga del Friuli Venezia Giulia di cui è interessato mio marito. Sì. Intanto è in cassa integrazione in deroga da 4 anni, non da poco. È una cosa secondo me scandalosa. La deroga della deroga della deroga, Liliana. No, tutte deroghe. È partita con la deroga, è sempre stata deroga. Un'azienda di 71 dipendenti originariamente, quindi anche questo non lo capisco. Condivido perfettamente quello che ha detto l'ascoltatore precedente, infatti assolutamente ci sono le rotazioni con decreti regionali che dovrebbero essere rispettate e non vengono assolutamente rispettate, anzi dirò molto di più, la cassa integrazione in deroga viene usata per lasciare a casa i lavoratori che costano molto, magari quelli più anziani dell'azienda, e nel frattempo si fanno lavorare lavoratori esterni pagati con i voucher, e io penso che questa sia una cosa scandalosa, controlli non ce ne sono. i sindacati non controllano, i DPL rimandano perché non è di loro competenza, la regione non è, dice che non è sua competenza e noi andiamo avanti in questa situazione. Liliana, grazie per la sua accorata testimonianza. Allora, certo che in qualche caso si può parlare anche di abuso da parte dell'azienda nell'utilizzo di questi strumenti. È anche vero, Maria Carla, che da 4 anni viaggiamo in una condizione di emergenza tale per cui forse da più parti si usa chiudere un occhio su certe pratiche, perché effettivamente il tema, d'altronde sollevato ieri dal ministro, dal premier Letta, di ridurre il costo del lavoro è centrale. Le aziende non ce la fanno più. Sì, le aziende non ce la fanno più. Ci sono, come dire, probabilmente ci sono anche dei vincoli eccessivi. Detto questo, però, mi sembra che la testimonianza della signora sia come dire, rotta porta nel suo intervento prima, lo ha detto abbastanza chiaramente. Insomma, la cassa integrazione in deroga è siglata attraverso un accordo sindacale che viene recepito dal ministero, quindi c'è un decreto, lì dovrebbero essere scritte le condizioni e le modalità per la fruizione. Rota Porta ricordava anche che appunto le DPL sono competenti nella verifica della correttezza dei rapporti. Per quanto riguarda i voucher, insomma, la signora pone un problema che è quello, come dire, di una flessibilità cattiva. Adesso in qualche modo non lo so se la legge Fornero ha dato una risposta soddisfacente con la modifica della normativa sui voucher, cioè in pratica con un limite in capo al lavoratore per cui il lavoratore non può percepire più di 5.000 euro l'anno in voucher o 2.000 euro se si tratta di impresa commerciale. Probabilmente, come dire, come ricordavano sia Falasca che Rota Porta, la semplificazione dei contratti, l'estrema semplificazione dei contratti potrebbe anche in qualche modo ridurre queste forme di abuso che probabilmente esistono. No, insomma, tanto mi veniva in mente anche sempre in riferimento a quello che ci ha raccontato l'ascoltatrice, l'auspicio indicato ieri da Letta, che ha detto che comunque gli ammortizzatori sono da ripensare, riferendosi a quelli in deroga che sono ormai prossimi all'esaurimento, e ha detto che bisogna voltare pagina studiando soluzioni di portata strutturale. Questa deroga di questa ascoltatrice era diventata veramente un sussidio strutturale, basta cambiargli i nomi, ma di fatto era così. Tra l'altro appunto la sostituzione degli ammortizzatori in deroga con il finanziamento attraverso i fondi di solidarietà, che è un capitolo tracciato dalla riforma Fornero, è stato solo tracciato, solo in qualche modo abbozzato. Poi c'è tutto un lavorio di come dire, del governo, delle parti sociali, che deve in qualche modo dare corpo. Adesso si tratterà di vedere se il governo vuole continuare su questa strada oppure vuole cambiare trovare direzione. Un'altra direzione. E così speriamo di aver risposto anche a Luca al 349-238-6666, che chiedeva, vorrei sapere se i contratti di solidarietà verranno rinnovati. Rapidamente, chi scelgo fra le due domande? Verranno rinnovati perché il problema è quello, come dire, che che mi sembra tra un anno non si sa quale sarà l'integrazione, l'integrazione stipendiale arriverà fino all'80%. Allora, rapidamente leggo io queste domande di questi ascoltatori. Mariella Dalodi voleva sapere se è possibile avere cassa integrazione dopo aver con uno stage di 4 mesi, Falasca in 5 secondi, 10 anche. Beh no, lo stage no, perché non è rapporto di lavoro. Massimo da Padova invece voleva chiedere, l'azienda ha messo in cassa integrazione, perché non gli fanno prima smaltire tutte le ferie arretrate, Rota Porta? Beh, in teoria bisognerebbe operare in questa maniera, lasciare solo come residuo le ferie quelle collettive, però le altre dovrebbero essere esaurite prima di accedere alla cassa. E allora, insomma, la teoria è sempre di un certo tipo, poi la pratica non si sa perché, con questa condizione ancora così difficilissima in Italia è tutta un'altra storia. Intanto ci confrontiamo oggi con questo nuovo dato sulla disoccupazione di marzo, con cui apriremo probabilmente anche il prossimo giornale radio, che resta all'11,5%, sullo stesso livello quello già registrato a febbraio, anche se con qualche componente che cambia invece in termini di percentuali. La disoccupazione giovanile al 38,4%. Speriamo che si faccia qualcosa di meglio per l'apprendistato, che a noi è uno strumento che piace, un po' meno alle aziende per tante problematiche appunto di attuazione all'interno. Però grazie a Maria Carla De Cesari, all'avvocato Giampiero Falasca, ad Alessandro Rotaporta. In tutto questo, domani è il 1° maggio, la giornata, la festa dei lavoratori. Auguri a tutti, noi ci sentiamo invece giovedì con Salva Danaio. A tutti buona giornata. Salva Danaio.